colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento che credo al sentimento, e giuro che per noi non finirà. Mare, profumo di mare, l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento che credo sentimento, e giuro che per noi non finirà. Mare, profumo di mare, è colpa del que